Martedì, prima settimana, lodi matutine. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria. O Padre Santo, fonte d'ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen. Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi salirà al monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. Seconda antifona. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia. Fa scendere negli abissi della terra, fa risalire nella grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse, per proclamare la sua grandezza. Esultatelo davanti ad ogni vivente, è Lui il Signore, il nostro Dio. Lui, il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi. Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui, e allora Egli si convertirà a voi, e non vi nasconderà il suo volto. Ora contemplate ciò che ha operato con voi, e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia, ed esaltate il Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio, e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia? Io esalto il mio Dio e celebro il Re del cielo, ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Terza antifona. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate, poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra, dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Come in un'otre raccoglie le acque del mare,